Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo inizio di settimana e nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. E allora Gianluca, parliamo di una cosa che tocca veramente le tasche e anche in maniera importante di tante persone. Parliamo dei problemi della Banca Popolare di Vicenza. Ricordiamo che è stata data una multa da 4 milioni e mezzo di euro dall'antitrust proprio alla Popolare di Vicenza. Quindi ti lascerei la parola, anche perché so che delle persone si sono rivolte proprio all'Adico. Sì, Francesco, noi tra l'altro stiamo seguendo veramente tantissime persone, sia per quanto riguarda la Popolare di Vicenza che per quanto riguarda Veneto Banca, sempre per appunto problemi legati all'acquisto di azioni che adesso hanno perso totalmente valore e per le quali diciamo chi l'acquirente non conosceva poi il vero rischio. Sì. Questo è un fatto noto, noi credo stiamo seguendo addirittura un 100-150 persone, scusami, diciamo metà della Popolare di Vicenza e metà di Veneto Banca, e una parte di queste persone aveva proprio fatto questo, cioè aveva stipulato un mutuo con la banca Popolare di Vicenza o Veneto Banca, però chi gli ha stipulato il mutuo, quindi la banca stessa, gli aveva proposto agevolato, ma solo se la persona avesse acquistato delle proprie azioni. Quindi praticamente la persona andava là, chiedeva un mutuo per comprarsi l'abitazione solitamente, e chi gli voleva accordare il mutuo diceva sì, io ve l'accordo, però voi dovete acquistare un tot di azioni della nostra banca, perché sapevo benissimo che entrambe le banche avevano una fortissima necessità di ricapitalizzarsi e quindi hanno raggirato anzi più di qualche cliente, come abbiamo visto in questi giorni. Cosa è successo? È successo un fatto molto importante che è stato anche ripreso ovviamente da tutti i giornali nazionali, ovvero l'antitrust ha multato con 4,5 milioni di euro il comportamento illegittimo proprio della Popolare di Vicenza, proprio riguardo a questi mutui, si chiamano appunto mutui baciati, cioè dei mutui subordinati all'acquisto delle azioni. Per noi è questo un fatto molto importante, per noi, ma devo dire per i nostri soci, ma per tutte le persone che comunque hanno avuto problemi con entrambe le banche. In primo, chiaramente è un grande vantaggio per chi veramente ha stipulato il mutuo sotto il ricatto, tra virgolette, di acquistare delle azioni. Però diciamo si apre la strada anche per tutti gli altri, perché comunque si evidenza come in questo periodo, soprattutto dal 2013 al 2015, insomma, entrambe le banche hanno fatto di tutto per raggranellare soldi, per ricapitalizzare i propri istituti, per salvarsi fondamentalmente, però insomma abbiamo visto che tante persone sono rimaste spiazzate, quindi diciamo questa è stata un'ottima notizia per noi e crediamo per tutti i soci che si sono rivolti a noi per questo motivo. Ecco, questa multa da 4 milioni e mezzo di euro intanto è stata data alla Popolare di Vicenza, vedremo anche se arriverà a toccare altre banche, come dicevamo, no? Sì, da noi Francesco è noto che i problemi sono Popolare di Vicenza e Veneto Banca, lo vediamo quotidianamente che ci sono associazioni, avvocati eccetera che stanno tutelando migliaia, assolutamente migliaia di soci, di clienti di entrambe le banche, clienti che avevano anche somme di denaro importanti in azioni e queste azioni hanno perso completamente valore, ma era stato meno dell'1%, diciamo. Esatto, così. Quindi eravamo arrivati a un deprezzamento del 90%, siamo arrivati praticamente al 99%, capiamo che insomma, soprattutto chi ha investito 10, 20, 30 mila euro, abbiamo gente con 100 mila euro di investimento, insomma, ritrovarsi con briciole non fa assolutamente piacere. Crediamo che e speriamo che questa azione dell'antitrust e comunque anche l'indagine svolta dalla Banca Centrale Europea ancora a giugno su 58 mila azionisti sempre della Popolare di Vicenza e per i quali è stato confermato che era stato alterato il profilo di rischio, praticamente a queste persone era stato detto che il rischio era nettamente inferiore rispetto a quello reale. Quindi stiamo vedendo che tutte queste vicissitudini stanno andando nella direzione giusta, cioè nella direzione di tutelare i clienti di queste banche che sono oggettivamente rimasti a terra e che si ritrovano veramente con un pugno di mosche in mano. se appunto qualche ascoltatore di Blu Radio Veneto fosse incappato in questa disgrazia e volesse insomma capire qualcosa di più, può sempre rivolgersi all'Adico. Ricordo, associazione difesa consumatori.it è il sito dove ci sono i contatti, i numeri di telefono, e può chiedervi lumi. Grazie Francesco, assolutamente, noi siamo a disposizione, abbiamo un ufficio legale e in particolare appunto un legale che si sta occupando di questi casi qua. Ripeto, abbiamo 150 persone tra una banca e l'altra, stiamo facendo veramente di tutto per far ottenere il massimo ai nostri soci, perché oggettivamente abbiamo storie, abbiamo già raccontato anche durante il vostro programma, storie di persone anche molto anziane che sono rimaste rovinate da queste situazioni. Grazie a Gianluca Codognato, l'appuntamento con l'Adico è tra un paio di giorni. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.